American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Ah, belli di casa, bentornati qui su www.runtimeradio.it. Questa è la radio che ogni volta cambia forma e cambia aspetto, soprattutto per cercare di emulare tutte quelle che erano le radio private e anche un po' pirata, insomma, degli anni 70 e 80, quelli, insomma, dentro gli sgabuzzini che si facevano praticamente tramite dei trasmettitori che arrivavano forse all'altro quartiere, ma questo non è assolutamente importante. Benvenuti in diretta, benvenuti a Quando eravamo futuro. Vi ricordo che per interagire con noi basta andare su telegram.me/dirette runtime e potrete tranquillamente insomma chiacchierare nella chat insieme a noi mentre facciamo la trasmissione. Diamo il benvenuto a Carlo Sant'Agostino. Ed eccomi qua, buonasera a tutti dal mio microfono nuovo, vi saluto. Bello, vecchio, nuovo. Si sente bene? Si sente molto bene. State registrando? No, immagino, giusto. Beh, no, hai ragione. Vabbè, oramai non fa niente, la professionalità prima di tutto. Ma non fa niente Davide Gatti. Buonasera e mi raccomando, aderite a Patreon e venite a trovarci anche lì, che Patreon è importante. Dove si trova? In provincia di? No, sentivo prima la bellissima voce della speaker che abbiamo assoldato, che però non conosce bene gli accenti stranieri. No, infatti. E quindi Patreon è diventato Patreon. Però anche Leo Vargion. Bisogna un attimo spiegargli come si dice, perché non abbiamo avuto il tempo di spiegarle, capito? Quindi lei è andata un po' così a braccio, è stata brava uguale, bisogna dire. Sì, la voce della Madonna veramente professionista, una bella... incredibile, che tra l'altro abbiamo pagato pochissimo, anzi non l'abbiamo pagata proprio. È una bella dentro o è anche bella fuori? Non lo so, questo devi chiederla a Sant'Agostino, che ci interagisce lui. Ah, ok. Guarda, dentro è bellissima, fuori non si può sapere. Bene. Roberto Tomaiuolo. E ciao a tutti. E oltre a Patreon c'è anche PayPal o qualcosa del genere. Sì. No, però forse PayPal lo dice pure giusto, dopo me lo riascolto adesso. Forse. Però diciamo che una via di mezzo. Con l'inglese non è facile. Allora, mia moglie sta continuando a distruggere casa così, non so se manie di protagonismo, non capisco. Beh, però comunque va bene così durante la diretta. Allora, ragazzi, noi siamo reduci dal meraviglioso raduno di Runtime, ragazzi, dopo tanto tempo. Il raduno 2021 finalmente siamo riusciti a farlo e qui eravamo. Voi siete riusciti a farlo. Ah no, perché stavo dicendo, e qui eravamo tutti presenti, giusto? No. Tipo il 50... col cuore e l'anima dell'email. La prossima ci sono. Ma l'hai detto anche questa prossima qui, però non fa niente, insomma. Comunque. No, non è vero. Se la prima questa. Ma sì, dai, va bene. Basta esserci col cuore. Ma sì, io poi per culo, voi lo sapete che per culo, insomma. Ragazzi, oggi puntata importante perché è puntata storica, sociologica, ma anche emotiva, insomma, da un certo punto di vista. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Perché ci sono quei momenti nella nostra vita che rimangono comunque indelebili, che rimangono lì segnati come quel punto fisso che ti ricorderai per sempre, e insieme a quello tutto quello che è venuto precedentemente, tutto quello che insomma ci portiamo dietro fino a guardarlo anche un po' con quel pizzico di malinconia, anche un po' di tristezza a volte, invece poi anche col sorriso, poi quando insomma prendi atto del fatto che gli anni sono passati, la storia è andata e tutto quello che doveva essere è stato. Davide Gatti, la tua puntata. Sì, la mia puntata che vorrei iniziarla con un breve racconto che in qualche modo sintetizza un po' quello che racconteremo poi magari nel dettaglio con le nostre esperienze, però volevo raccontare quello che è stato una mia giornata qualunque di quei tempi in cui la scuola era un'altra cosa, quando non sapevamo cosa c'era più avanti del nostro banco perché eravamo troppo piccoli, e volevo appunto fare questa breve, chiamiamola, intro, nella quale appunto racconto una cosa, poi da lì ognuno di noi poi racconterà le proprie cose tra le cose che tra di noi insomma in qualche modo combaciano con quello che è successo nella mia esperienza. E quindi vi racconto cosa succede in una giornata qualunque di quando io andavo all'elementare. In una giornata qualunque di tanto, tanto tempo fa. Direi proprio tanto nel mio caso. Casa gatti. Con la lacrimuccia, se devo dire la verità, perché ovviamente era un periodo in cui c'erano i miei genitori, che adesso non ci sono più, c'era un altro tipo di cose, un po' di emozione anche volendo. Sì, ma perché poi un po' sta puntata alla fine un po' ci tocca a tutti, nel senso, per quanto magari la puoi affrontare anche scientificamente, no? Però in realtà non è così, insomma, vai Davide. La mattina la mamma ci veniva a svegliare per dirci che era pronta la colazione e che ci dovevamo preparare per andare a scuola. Andavo in cucina, dove mio padre era già seduto ad assaporare la sua tazza di caffè latte, al cui interno ci aveva inzuppato pezzi di pane avanzato dal giorno prima e che mangiava con sonore cucchiaiate. Mio fratello invece aveva lo stesso caffè latte ma con i biscotti, quelli d'oro. L'altro mio fratello invece si stava bevendo un caffè. Io invece avevo un bel latte e cioccolata con i biscotti rotondi, quelli turchesi. Finita la colazione, si transumava tutti insieme nell'unico bagno disponibile, usando anche il bidet per lavarsi la faccia. Il tutto perché alla fantozzi eravamo sempre in ritardo. Una volta approntati, la mamma ci metteva il grembiule, a me e a mio fratello, e ci aggiustava il fiocco. E con la cartella sulle spalle si partiva. A piedi e da soli, ognuno per la sua direzione. Io andavo alle elementari e mio fratello alle medie e l'altro alle superiori. Una volta arrivati a scuola ci si incontrava con i propri compagni e si entrava proprio all'ultimo non appena suonava la campanella. Si andava ai propri banchi e ci si sedeva al proprio posto, domandandoci a cosa potesse servire quel buco che c'era sulla parte alta destra del banco. Tiravamo quindi fuori l'astuccio, libri, quaderni e ci preparavamo al saluto garbato alla maestra, alzandoci in piedi non appena entrava in classe. Buongiorno, signora maestra. Finiti i convenevoli, iniziava il rito dell'appello e si cominciava la lezione. Tra gli sguardi di Gesù che ci osservava dal crocifisso sopra la lavagna, mentre distrattamente guardavamo la vita che stava scorrendo fuori dalla finestra, in attesa della campana che suonando scandiva finalmente l'ora dell'intervallo. Lì si andava dai bidelli che in qualche modo mettevano in piedi una piccola bottega dove si poteva comprare per un soldo un pezzo di focaccia o qualche cosa da sgranocchiare. E il tempo scorreva veloce, calciando una palla di carta pallottolata in corridoio, fino a quando si doveva rientrare in classe e ricominciare a volare con la testa, in attesa della fine della giornata scolastica. Queste attese, durante i fiumi di parole che uscivano dalla bocca della maestra, che spesso sentiva solo lei, erano intervallate da manine che si alzavano e facevano una richiesta garbata e gentile. «Scusi, signora maestra, posso andare ai servizi?» E questo ti dava quei 5 minuti di tregua, che però ti potevi giocare solo una volta al giorno. Qualche volta questa grande distrazione veniva colta dalla maestra e cominciavano le punizioni, che ai miei tempi erano solo piccole umiliazioni pubbliche, come andare dietro la lavagna oppure sedere a fianco della maestra in cattedra. Solo di rado, se si era particolarmente dispettosi, si veniva gentilmente accompagnati fuori dall'aula in attesa della fine della lezione e si ritornava a casa con una bella nota sul diario e che non avevamo il coraggio di mostrare alla mamma. Comunque sia, la giornata di scuola era finita e se eravamo fortunati ci bastava dire che non c'erano compiti e si poteva andare in cortile a giocare, dimenticandosi di tutto quanto avevamo da poco fatto a scuola, per poi ricominciare la mattina dopo lo stesso ciclo, consapevoli del fatto che a fine anno saremmo stati tutti comunque promossi, anche se eravamo degli asini. Ed ecco qua, finita questa giornata un po' che ha raccolto, ma meno, ho cercato di raccogliere tutto quello che, non voglio dire l'essenza di quello che è una giornata che forse tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto allo stesso modo, ma secondo me abbiamo molto in comune, credo, di quello che ci sono in queste parole. Non so voi come vi siete sentiti sentendo queste parole, o come vi siete ritrovati. Sì, beh, a parte i tozzi di pane del babbo. A casa mia c'era questa cosa qua. Ognuno si mangiava il suo, è giusto. No, però esatto, devo dire che... Prego, scusa. No, dicevo, per tutto il tempo in cui sono stato a scuola, per tutto il tempo che c'era mio padre, sempre quello ha mangiato. Era abbastanza costante mio padre. Sì, scusa, vai pure avanti tu. No, beh, poi ti ho messo anche questa musina di pianoforte sotto, che poi in realtà cioè, l'ho messa un po' in ritardo perché ci vuole tempo di caricarla, mi è venuto in mente dopo questa cosa. Però devo dire sì che è abbastanza compatibile, no, con quello che abbiamo vissuto, credo, un po' tutti, perché poi alla fine la scuola, mo poi probabilmente ci sono le dovute differenze, come vedremo, magari anche a livello regionale, oppure magari se era una scuola pubblica o non. Però insomma, in linea massima penso che il principio fosse quello. E riguardando alcune foto durante oggi, cioè nel senso durante oggi è bellissimo, però dico della giornata di oggi, mentre che cercavo magari la foto appropriata per la cover, in realtà poi ne ho viste talmente tante che ne ho presa una a caso così. Però lì riguardavo queste foto e poi mi hanno dato anche spunto magari per mettere alcuni elementi nel documento. Quello che vedevo è che tutte quelle foto di scuole sparse in tutta Italia in realtà erano tutte quante la mia scuola, cioè nel senso che comunque, esatto, in qualche maniera c'era veramente una, ma non in senso negativo, omologazione, però c'era, esatto, un modo di vivere la scuola che era così, che era abbastanza compatibile sia nel rapporto che c'avevi con gli insegnanti. Ecco, sta cosa di alzarsi in piedi quando entra l'insegnante, ma secondo voi oggi si fa più? Ma non nel bene e nel male, cioè, però insomma è una cosa che comunque mi ha fatto anche un po' riflettere. Intanto salutiamo in chat Michela, chiaramente Sbano, che però mi sa che va a dormire, quindi salutiamo Sbano. Che va. Buonanotte, Roberto. Guarda, mi sono abbastanza ritrovato nelle parole di Davide, devo dire, soprattutto per quanto riguarda le elementari, forse. Esatto, sì, qui si parlava di elementari, ovviamente. Perché credo che qui noi abbiamo delle piccole differenze di età, credo che un qualche cambiamento probabilmente negli anni 80 anche per la scuola italiana e per noi ci sia stato, però quindi per i ricordi più piccoli dell'asilo, che non ricordo tantissimo, e dell'elementare mi ci ritrovo pienamente, e vedi, questi ricordi si uniscono a quelli che siamo andati raccontando per queste settimane, quindi di un paese che comunque viveva dei momenti di grande, come vogliamo dire, ottimismo in generale, è che noi comunque di riflesso, a mio avviso, vivevamo a scuola. Io a scuola, soprattutto all'elementare, andavo molto volentieri e mi divertivo. Era per me andare con i miei amici, compagni di scuola a fare tutte le cose anche un po' folli che abbiamo fatto, era una grandissima cosa, per cui mi ci sono ritrovato, comprese quelle cose che adesso possono sembrarci aliene. Hai parlato chiaramente del grembiulino. Sì, esatto. Quindi quel coso nero che portavamo, che però col fiocchettino anche. Era blu, non era nero? Era nero? No, il mio era blu. Nero, il fiocco era blu. Sì. Io non avevo il fiocco. Adesso vi do questa notizia terrificante, però sconvolgente. Secondo me sconvolgente, però era una gran cosa, secondo me, non tanto per l'omologazione, queste stupidaggini, semplicemente perché si sporcava solo quello, si lavava solo quello, era una cosa molto pratica, se vogliamo. Ma era un'opzione o non ce l'aveva tutta la classe? Tutta, no, la obbligatoria, classe. Obbligatoria. Ah, mi ricordo che mi ricordo che il Belgrado, allora noi ci avevamo, perché poi questo vabbè, poi magari ci arriviamo anche dopo, però era curiosa questa cosa perché forse io ho visto tante foto che erano abbastanza simili al mie, ma ho visto che comunque c'erano anche diversi tipi di grembiule, no? Poi magari dipende anche dal periodo, però per esempio noi erano, i nostri erano blu col fiocco bianco e le ragazze avevano bianco col fiocco blu, no? Per esempio era questa differenziazione che secondo me da un punto di vista strettamente pedagogico aiutava anche al fatto di non creare distinzione, no? Tra quello più benestante, quello meno benestante, sì. E oltretutto appunto come si diceva comunque le mamme erano contente perché si sporcavano i grembiuli e questo alla fine risparmiava un po' i vestiti sotto, perché comunque se tu stavi in classe a fare lo studente, però è vero pure che in quel quarto d'ora o mezz'ora di ricreazione succedeva l'inverosimile, ma poi questo un po' ci arriviamo. Io volevo sentire anche Carlo però su... Confermo il fatto che comunque ci si ritrova, perché quegli anni erano veramente la scuola era così, cioè, diciamo che adesso la scuola è molto più libera, non parliamo delle ultime riforme, ma lasciamo perdere la scuola di oggi, che se no andiamo a imperagarci in un discorso che non c'entra niente, sì. Parliamo dei ricordi nostri e soprattutto il periodo delle elementari è stato quello. Io mi ricordo che qui però tanto Davide, Davide è stato l'unico tra di noi quattro che ha fatto gli esami in seconda elementare, giusto Davide? Tu hai fatto gli esami in seconda elementare? C'ho la pagella proprio qui della seconda elementare, ma non me lo ricordo, sai, degli esami. Allora già tu non li avevi più fatti? No, li ho fatti. Io mi ricordo che quelli del 69 o 68 hanno fatto gli esami in seconda elementare, mentre noi del 70 già li avevano tolti. Non me lo ricordo. Sai che però questa cosa della seconda elementare un po' me la ricordo anch'io. Cioè non... C'erano gli esami in seconda elementare e poi in quinta. Li facevano sia in seconda che in quinta. Più che un esame era una specie di... Sì, hai ragione. Me ricordo che era due. Cioè mi ricordo in quinta, mi ricordo a metà strada. Sì. Vabbè, sì. Comunque noi dal 70 in poi, quindi io, Simone e Roberto non l'abbiamo fatti. E abbiamo fatto solo gli esami di quinta elementare. Poi il coso del discorso dei grembiuli, io mi ricordo che i nostri erano neri col fiocco blu e le ragazze c'erano bianchi col fiocco rosa, proprio una distinzione netta tra ragazzi e ragazze. La cosa del fiocco era divertente perché mi ricordo che è vero che non c'era, cioè, il grembiule ti aiutava a annullare un po' le distinzioni diciamo sociali tra i ragazzi eccetera, perché quello, il contadino piuttosto che il figlio dell'industriale, eravamo vestiti tutti allo stesso modo col grembiule praticamente, sì, però sì, ricordo che il modo di portare il fiocco era distintivo da bambino a bambino, perché c'erano quelli che ce l'avevano bene allacciato tutto bello col fiocco e se lo tenevano così, c'era quelli che se lo morsicavano, quelli che lo portavano sempre slacciato. No, a me mi durava 3 minuti il fiocco, esatto, 3 minuti e ce l'avevo slacciato, poi io non ero proprio capace, cioè non sapevo. C'è la foto di classe dove vedi proprio quelli col fiocco ancora integro e quelli col fiocco disintegrato pure slacciato. Io ho postato una foto di classe dove ci sono io, se qualcuno mi trova e vedo che tutti più o meno fiocco ce l'hanno. C'era una maestra che era ripassata, comunque si faceva in giardino la foto di classe, ovviamente tutti fuori al giardino della scuola. Sì, ovviamente. Quella me la ricordo anch'io. E poi vabbè, la maestra, noi avevamo la maestra o il maestro, che era una figura unica che ci seguiva sempre qualunque cosa, e tu partivi dalla prima alla quinta con questa seconda mamma o secondo papà. Sì, alla fine, beh, elementari era così, è vero. Ma era così. Io sono stato sfortunato perché ho avuto diverse maestre proprio perché era andata in pensione, era morta, non so bene. Bello. Comunque due o tre maestre l'ho cambiate, quindi non c'ho avuto mai questa percezione, però sì, era così, cioè la maestra era la maestra dalla prima alla quinta elementare, ti accompagnava per tutte le materie, per tutte le cose. C'è da dire che io faccio poi il confronto con i miei figli adesso. Le elementari che facevamo noi si imparava le tabelline, far due conti e tre cose in croce, perché se guardo adesso quando escono in quinta elementare sembra arrivano in quinta con gli argomenti che io mi ricordo di aver fatto in prima liceo quasi. Sì, forse sulla scuola di partenza, forse sulla scuola di partenza sì. Però se io faccio un discorso generale sui tre gradi di istruzione, secondo me noi eravamo più preparati, cioè proprio alla fine della fiera, mediamente, secondo me c'era più preparazione. Può essere sicuramente abbiamo aumentato, diciamo, ma poi quello dipende anche, allora lasciamo perdere, perché in effetti poi è un discorso complicato, sì, perché vabbè, adesso le scuole sono molto diverse tra città, paese, cosa, ogni scuola si organizza, quindi anche lì è tutto un casino, non si capisce. Cosa sulla quale io non so d'accordo minimamente, ma vabbè, neanch'io, questa è la mia opinione, quindi me la tengo, insomma, però. No, ma neanch'io sono d'accordo su sta roba, però è così. Adesso praticamente le scuole sono indipendenti, si fanno i programmi. Il loro piano di studio, piano formativo. Formativo. Vabbè, comunque, alla fine vabbè, è così. L'unica cosa che non mi sono ritrovato, ecco, era nelle punizioni. Da me già non c'erano più, me le ricordo di averle viste in televisione nei film, il fatto di mettere il bambino nell'angolo dietro la finestra, però io non mi ricordo di averle vissute queste cose qua, no, forse erano già state tolte dopo qualche anno. Beh, però erano molto più degli anni 60 questa, sì, cosa, però d'altra parte io l'ho fatto nel 70 alle prime elementari, quindi certo c'era ancora quella, non erano a livello così indicativo, cioè andare dietro la lavagna, che poi voleva dire sedersi su una sedia più o meno dietro la lavagna ma fuori, ma più frequentemente ti sedevi sulla cattedra della maestra, che di per sé voleva dire che dovevi stare attento e basta, non potevi più. Guarda, io non so, ma adesso sentiamo pure Roberto su questo, però io devo dire che questa cosa è molto soggettiva. In generale, in senso proprio globale, le punizioni dalla scuola diciamo sono state moderate proprio anche per un'esigenza di legge, cioè nel senso comunque poi alla fine comunque si faceva molta più attenzione, c'era anche più denuncia da un certo punto di vista, anche se le madri spesso e volentieri non avevano il coraggio, perché comunque c'era questa reverenza quasi nei confronti della figura, esatto, del docente, come se fosse comunque lui la verità rispetto a qualsiasi altra cosa, certo. Però va sicuro che per esempio mia moglie in elementari, e lei è molto più giovane di noi, la maestra dava le bacchettate, fino a che, e lì poi il problema è che nonostante le denunce non sono mai riusciti neanche a mandarla via sta maestra, quindi vedi che poi c'era tutto un sistema. E io invece mi ricordo all'asilo, dalle suore, la suora mi dava le pennarellate sulle nocchie, cioè proprio, quindi cioè alla fine questa cosa in realtà diciamo è sparita, però poi c'erano delle soggettività, insomma, diciamo, in delle questo, sacche di resistenza, esatto, che non era mai inutile in quel caso. Roberto, invece tu? Allora, innanzitutto una curiosità, stiamo parlando delle elementari, una curiosità che io ho continuato a avere ripetizioni dalla mia maestra dell'elementare anche alle medie. Ah, sì, sì. Perché io ero molto simpatico, cioè andavo a casa sua e lei mi dava ripetizioni a me e a sua nipote, Lara. A proposito, se mi stai sentendo, non scadiamo sui film del Pierino, però. De Pierino. No, la nipote era fantastica, bellissima. Intanto non la vedo da allora, quindi. E questa magari è una curiosità, è morta, punizioni, magari è morta, esatto. Spero di no. Invece, punizioni non ne ricordo. Ricordo sì, sia alle elementari che alle medie, che quando non faceva troppo casino veniva fatto avvicinare o messo a fianco alla maestra, così non poteva distrarsi. Sì. Poi il discorso molto diverso al liceo, ma magari ne parliamo dopo. Sì, dopo le evoluzioni successive. Era molto diverso per mille motivi, e diciamo che i professori mai avrebbero toccato un ragazzo, anche perché rischiavano di prenderle, almeno dove ero io. Esatto. da me invece era molto diverso, ma perché io poi a me è successa una cosa, cioè, che poi dopo dirò meglio, ma io ho fatto 5 anni di elementari nel mio paese, le statali normali a Settimo Milanese, e poi i miei genitori della prima media mi hanno mandato in collegio. Giusto. A Milano. Vedi, quindi io mi sono fatto 3 anni di media e 5 anni di liceo. Ecco perché poi hai fatto il collegio, perché dopo esatto, ecco perché sai bene cosa vuol dire. Esatto, e li guardi lì con disprezzo, perché ci dovete soffrire pure voi. Comunque, andiamo un attimo, scusa Davide. No, volevo solo dire che io comunque avevo due fratelli, adesso uno non ce l'ho più, comunque avevo due fratelli più vecchi di me, e che quindi sono andati a scuola molto prima di me, e il più vecchio le bacchettate le ha prese. Le ha prese come? Lui aveva 8 anni meno di me, cioè più di me, scusa, quindi lui andava alle elementari nei 65 o anche prima, e mi ricordo che lui le bacchettate le ha prese ed era normale che le dessero, ed era normale che i genitori andavano dagli insegnanti, gli dicevano: se non fa il bravo le dia le bacchettate. Cioè erano i genitori stessi che lo dicevano agli insegnanti, eh. Mi raccomando, se fanno casino, se non studiano, gli dia le sculacciate, gli dia le bacchettate. Era proprio raccomandazione. Sì, era una raccomandazione. Diciamo che c'erano sensibilità totalmente diverse. Noi lo stiamo vedendo anche ogni tanto in le orazioni della sera che fa Walter Sbano dalle 20 alle 20:30, che ogni tanto magari mette qualche sigla di qualche vecchio cartone animato, e ci rendiamo conto che a volte in questi cartoni animati succedevano cose che oggi non sarebbero proprio concepibili neanche da trasmettere, insomma, perché comunque alla fine è proprio una sensibilità, no, che da questo punto di vista è cambiata, nel bene e nel male. Non sta adesso, non è il compito di questa trasmissione mettersi a giudicare questo, però mi faccio una battuta stupida, poi diamo un attimo di ordine a sta puntata, così io la accompagno Davide in questo percorso, poi dopo ci sono i punti in cui riprende lui. Però per esempio oggi mi è venuta in mente proprio la battuta che ho fatto prima mentre parlava Roberto, poi in realtà mi dispiace pure perché poi dico delle cose che magari non, cioè uno lì per lì lo fa scherzando, però poi se c'è magari la persona interessata che ti ascolta magari si gratta pure, insomma, perché giustamente. Però guardando tutte queste foto, oggi ho visto veramente tante foto, e la maggior parte sono tutte foto di scolaresche sono tutte foto di scolaresche e degli anni 70, ma a volte anche un po' prima, no? Cioè, queste foto proprio in bianco e nero come quelle che ha condiviso prima Davide, no? E quando io li guardavo a un certo punto pensavo, cioè, chissà tutti questi quanti sono morti. Io non lo so perché faccio questi pensieri strani. In realtà poi alla fine tutto è nato dal fatto che c'era una fotografia e la scuola di infermieristica di non ricordo cosa compie 100 anni, ed era una sorta, e c'era questa foto evidentemente de 100 anni fa, no? E quindi tra quelli sicuramente saranno tutti morti, insomma. Però poi andavo avanti e dico, ma pure questi chissà chi è vivo, chi è morto, insomma. Vabbè, comunque questo scusate, l'ho dovuto esprimere, ma perché è proprio una mia... No, ma secondo me è una cosa normale, è una cosa che anch'io ci penso guardando, quando vedo una foto che dico, questi, cioè, se va bene avranno 90 anni, o anche adesso che vedo la famosa maestra, adesso quella maestra lì, se va bene, avrà 80 anni, 90, non so se ci sarà ancora, no, a dire la verità. Io non la vedo più da allora, però immagino che lì avrà avuto una 30 d'anni, e quindi adesso ne ha 80 o 90, se li ha. Ma guarda, non c'è più. Guarda, io questo lo faccio, sono pensieri che ogni tanto mi vengono, pure quando vedo gli urbex, no? Quelli bravi che entrano dentro i posti e rispettano anche tutte le cose, ci sono queste foto di bambini, no? E dico, vabbè, cioè, questi sono bambini, cioè, il fatto che il tempo si frizza in quel momento, in quell'istante, e ovviamente nel frattempo sono passati 70-80 anni, quella gente non ci sta più, mi fa sempre un po' specie. Però poi mi ricordo anche il fatto che la maestra, la suora dell'asilo che vi dicevo che dava i pennarelli sulle nocchie, si chiamava Suor Michelina, io ancora me la ricordo, ed era anziana quando ero piccolo, io ci avrò avuto 5 anni, no? Cioè, nel senso, mettete ipotesi, perché io sono andato anche un po' prima per stare in classe con mio fratello, che mio fratello è di 14 mesi più grande di me, quindi lui stava un decimo avanti, cioè un anno avanti, no? E alla fine questa Suor Michelina, io dopo tipo verso i 27, 28 anni, 30 anni, stavo con una ragazza, e mi ricordo che un giorno, passando per questo posto dove sapevo che c'era l'asilo dove andavamo noi, E io sono entrato, ho detto, cioè mi è venuta la curiosità, dico, ho incontrato una suora, gli dico, sì, salve, io sai che quando ero piccolo, ma c'è ancora suor Michelina? Ovviamente immaginavo, cioè, morta e sepolta, mummia incatastata da qualche parte. C'è, che come non c'è suor Michelina? Aspetta qua che te la vado a cambiare, te la vado a chiamare. Arriva sta donnina microscopica, piccola, tutta in carta pecorita, perché giustamente ci avrà avuto 1646 anni, insomma, non so. Che mi arriva e mi guarda negli occhi, cioè, ragazzi, è una cosa a me. Simone. Sì. Mi ha riconosciuto. Ha parlato di me, di mio fratello, di mia madre. Cioè, io sono rimasto, io dico, cioè, vai retro, Satana, ancora. Cioè, tu sei viva perché c'è un demonio dentro di te, c'è qualcosa che non va. Cioè, nel senso, eppure mi ha fatto piacere allo stesso tempo impressione, certo, chiaramente. Però sarei rimasto molto, cioè, impressionato. Ma tu sai quanti bambini avrà visto suor Michelina nella sua millenaria carriera? Ha passato una vita vedendo bambini. Esatto. Sembra incredibile che possa ricordarti te. Devi avergli fatto qualcosa, però, per ricordarsi. Ma non lo so, perché, cioè, nel senso, come fai a ma anche se, cioè, voglio dire, ci sono persone che ti hanno fatto un qualcosa, magari che ti ricordi, ma magari non ti ricordi manco. Cioè, ma questa dopo 30 anni, ma neanche, vabbè, 25 anni, 24 si anni. Si ricorda tutto. Era veramente incredibile. Comunque, guardando queste foto, la cosa che mi è saltata agli occhi in generale, perché poi quando noi andavamo alla scuola conosciamo la nostra scuola, non è che conosciamo la scuola degli altri, capitava rarissimamente che si facevano incontri dei gemellaggi fra scuole, cose, ma proprio rarissimamente. E in generale la cosa che mi colpisce è che negli anni 70 e 80 le scuole avevano più o meno tutte lo stesso layout, cioè erano tutte lo stesso aspetto. Cioè, se tu vedi una foto riconosci che era una scuola, ma non esternamente, io dico internamente, no? Tipo, per esempio, vi ricordate, insomma, la maggior parte erano tutti edifici magari grandi, cioè vecchi, magari con i soffitti alti, dove era tutto bianco e metà della parete era verde, per esempio, no? C'era la cosa, è vero, se verde acqua, verde acqua, il verde, sì, sì, acqua, no? I banchi erano, era lo stesso colore dei banchi, lo stesso, esatto, che era lo stesso colore dei banchi, bravo. Poi c'era la lavagna, la famosa formica, bravo, la famosa. Avevate il buco nel banco, ce l'avevate ancora anche voi? Sì. Ma il buco, cos'è il buco nel banco, per esempio? Dov'era questo buco? Era dove si metteva il calamaio, solo che noi non usavamo più il calamaio perché era all'Ebiro, però c'era rimasto il buco. Sta cosa non me la ricordo, perché i banchi derivavano da banchi degli anni 60, quando le non c'erano, ti portavi il tuo inchiostro, lo mettevi nel buco, esatto, e poi usavi il pennino. Ma guarda, io devo dire, sta cosa forse ho un vaghissimo percezione di sta cosa, però poi dopo ho un ricordo molto più fresco delle medie, no? Dove le medie già non c'era più sta cosa, cioè c'erano comunque i banchi sempre di formica, sempre nella stessa maniera, però erano più o meno, insomma. Però ecco, comunque. Ma c'avevi il banco doppio o il banco singolo tu? No, io c'avevo il banco doppio, sempre c'ho avuto, sia nelle medie che elementari. Io invece no, alle elementari mi ricordo quello singolo, che poi li mettevamo affiancati. Comunque. Adesso questo dettaglio faccio fatica, però mi sembra che siano sempre stati doppi, eravamo sempre a coppie noi. No, era singolo, mi ricordo perché si spostavano i banchi, quindi viaggiavano per la classe. Voi eravate più avanti. Questo però pure da noi, perché a volte c'era quello che te la faceva mettere in cerchio, c'era quello che te faceva mettere, magari se faceva musica, se faceva, cioè capitava anche questa cosa, io me la ricordo. Però devo dire, il banco comunque da noi, io ce l'ho sempre avuto doppio. Però la cosa delle pareti mi ha sempre fatto impressione, perché dico, perché c'è nel senso questa greca rialzata verde come i banchi, no? Ha sempre fatto, perché questo lo so io, perché praticamente i ragazzi poi sbattevano i banchi contro il muro, no? E i muri si rovinavano sempre a quell'altezza lì, più o meno all'altezza banco, e comunque essendo seduto, anche se pasticciavi il muro, lo pasticciavi altezza banco, quindi quella cosa lì era fatta perché quando dovevano ripitturavano solamente quel pezzo lì, certo, in pratica, certo. E risparmiavano il fatto di ripitturare la parte sotto. Ha senso. Io mi ricordo le cartine geografiche, se tu ci pensi, le cartine geografiche dell'ora erano un altro mondo, proprio completamente erano un altro mondo, davvero erano un altro mondo, sì. C'era L'URSS. C'era la Jugoslavia. La Jugoslavia. La Germania dell'Est, dell'Ovest. La Cecoslovacchia. Esatto, cioè, nel senso, veramente geograficamente era. Era la Germania Est e Ovest, vero? Esatto, sì, era sì, l'altro mondo. Sì. C'è la DDR. La DDR. Le lavagne. Voi ce l'avevate la lavagna verde o la lavagna nera, per esempio? No, nera. Il cancellino, quello a chiocciola, esatto, arrotolato. Vabbè, che si lanciava. Stava più in faccia a qualcuno che sulla lavagna. Esatto. Era il lancio del cancellino. Il cancellino, però poi a un certo punto era passato che c'era una corda, era legato alla lavagna, non si poteva anche certo. vero, hai ragione, ma tanto con lo spago tanto non c'era, sì, c'era problema, durava poco il cordice. Sì, durava poco. Per esempio voi i gessi interi non li vedevi mai, gessi interi duravano 3 secondi. Dovevi usare il pezzettino di gesso che era grande come un'unghia e dovevi scrivere con quello sulla lavagna. Che poi se tu ci pensi, al di là che alcuni di noi, per esempio io ero uno di quelli, il gesso dava proprio fastidio, però cazzo, ma cioè, se respiravamo la polvere, cioè nel senso alla fine quanta polvere di gesso abbiamo respirato, sozzeria quella era, ragazzi, cioè nel senso, tonnellate di polvere di gesso. Ma poi voi ci avevate la lavagna quella appesa al muro o la lavagna quella che si girava? Di solito appesa al muro. Io c'avevo la lavagna elementari, no. Ah no, è vero, all'elementare no, hai ragione, all'elementare ci si metteva dietro la lavagna quando c'era quella col treppiede, Io invece anche all'elementare me la ricordo appesa al muro. Quindi a te quando ti mettevano dietro la lavagna in realtà ti muravano. Non mi mettevano dietro la lavagna. Ah no, pensavo che ti muravano dietro la lavagna. Della classe di fianco. Però i buoni e i cattivi noi lo facevamo. Si faceva la riga in mezzo, no? Quello era di solito il compito quando la maestra o il maestro doveva andare via. Allora diceva, prendeva il capoclasse, quello che secchione. Allora tu adesso ti metti qua e mi fai l'elenco dei buoni e cattivi. E le botte si spreavano. Io le poche volte che l'ho fatto io ero di uno stronzo, il primo che si muoveva proprio muoveva un braccio, tac, cattivo. Ma vedi, per esempio, avete mai avuto la percezione della cattedra come di una sorta di altare intoccabile quando eravate piccoli? Chi osava mettersi alla cattedra? E poi la cattedra era rialzata rispetto a esatto. E aveva un gradino che praticamente te la alzava. Anche perché l'interrogazione quando ti chiamava in cattedra era, cioè tu eri sul palco praticamente. E tutti ti guardavano. Sì, era una pedana di legno che reggeva la cattedra. Sì, l'interrogazione era pubblica e richiedeva l'attenzione della classe. Questo è notato che è una cosa che si è persa. Nei miei figli spesso gli chiedo, ma oggi cosa ha fatto? Ha interrogato la maestra, il professore, eccetera. E gli chiedo, ma cosa ha fatto? Non lo so. Come non lo sai? No, cioè, vanno a fare interrogazione e loro si fanno i cazzi loro praticamente. Cioè, e poi non è più il voto da anni, non è più pubblico. Cioè, non dice il voto che ha preso, non viene detto a tutta la classe. È per la privacy. Il voto era pubblico. Esatto. No, sì, ma sul serio. Era pubblico, era pubblicissimo. Cazzo. Da noi era pubblicissimo, invece lì no, lì è tutto. Adesso è tutto segreto praticamente. È cambiato tanto. Cose sono. Per esempio. Noi eravamo esposti al pubblico ludibrio. Esatto. Se andavi bene eri contento, se andavi male 3-2. No, vabbè, ma adesso all'elementare non mi ricordo come erano i voti, devo dire la verità, però. Abbiamo avuto un periodo, mi è capitato recentemente di riprendere le pagelle, mi sono reso conto che abbiamo avuto dei periodi strani, perché noi all'elementare abbiamo avuto tipo un anno si dava bene, buono, buonissimo, bravo, bravissimo. Io quello me lo ricordo alle medie, 5, 6, 7, 8, poi di nuovo buono, bene, e siccome siamo sfasati noi con gli anni. Tu sei del 75, giusto Simone? No, 72. No, 72. Scusami. Cioè, 2 anni di differenza. Quindi quando si usava, quando avevano deciso di dare buono, bene, bravo, ottimo, anziché 5, 6, 7, magari io ero in prima media e tu eri in quinta elementare, capito? Cioè era tutto sfasato. Francesco però, in chat dice che pure lui c'aveva la maestra che menava, quindi... Molte cose si spiegano adesso. Esatto, molte cose si spiegano. Scherzo. No, comunque, dopo la leggiamo, ti ricordi invece in pagella i famosi sex al posto che sei? Questo l'hai detto pure l'altra volta, No, deve essere una cosa vecchia questa, di Marella. Si scriveva sex perché se scrivevi sei bastava aggiungere una stanghettina un po' più lunga alla i e diventava un sette. E allora scrivevano sex per scrivere sei in modo da non poterlo alterare facilmente, perché l'unico documento dove c'era scritto i tuoi voti era la pagella che avevi tu, non c'era una copia. O se quindi lì sopra tu ci scrivevi tutti otto, tu avevi tutti otto, c'era un registro, sì, da qualche parte, però in realtà c'era il registro di classe che usavano in sala di riunioni quando facevano potevi alterare anche quello volendo facilmente, perché l'accesso era facilissimo. Però diciamo che che quando andavano a fare lo scrutinio finale e vedevano che tu c'avevi tutti i sette, qualcosa non gli tornava, perché se lo ricordavano che tu non c'avevi tutti i sette, insomma, nel senso, non è come sui film americani che cambiavano col computer, si collegavano in maniera empirica. Se guardate nella chat la pagella quella blu, ci sono dei sex, e uno dice: ma com'è sex? Che cacchio vuol dire? Secondo me America, geometria era un messaggio sex massonico che serviva per capire che il bambino dopo se lo puoi rubare. C'ha l'adenocromo. Avevo 5 in lingua italiana, ragazzi, 5, 6 al terzo trimestre. Al terzo semestre ti facevano passare sempre, anche poi, se capra. Cioè, tra l'altro, voglio dire, nel senso, comunque 5 in lingua italiana per gli standard da allora, perché tu comunque ce l'hai comunque una proprietà di linguaggio, no? Cioè, rispetto, insomma, magari a situazioni, insomma, magari di oggi, dove io ho visto veramente 7 o 8 in inglese dove a malapena sapevano di good morning, quindi insomma. In storia e geografia 5 ci sta benissimo. Per me Firenze, come ho già detto qualcuno, quando ho raccontato che dovevo andare a Riccione, ci siamo trovati a Firenze, eravamo in macchina in 4 su 4, 3 ci siamo domandati se bisognava passare per Firenze per andare a Riccione e 3 hanno detto di sì. Proprio degli ignoranti, proprio spaventosi. Vabbè, la geografia, secondo me, abbiamo smesso di studiarla negli anni in cui abbiamo fatto noi l'elementare. Sì, credo sia una materia che abbiamo fatto malissimo, geografia in generale. Beh, in generale sì. Diciamo che non ha mai goduto di, nel senso, io comunque me la ricordo la geografia, però insomma mi ricordo le cose ripetute a macchietta e esatto, così, a memoria dovevi ricordare. Mi ricordo che tutti i paesi del mondo c'avevano i barbabietole da zucchero, quello sempre. E non mi vengono le altre la parole. La pastorizia, cioè, che poi mi faccia ridere perché cioè veramente oggi io penso, se prendo un testo di geografia di oggi, ma qual è il paese che campa sulla pastorizia? Cioè, non è, cioè era pure anacronistico pure allora, non lo so, comunque. La cosa bella comunque era la foto del presidente e il crocifisso. Allora, per quanto riguarda il crocifisso, all'elementare no, ma poi dopo, andando avanti nel tempo, insomma, a quel poro crocifisso gli succedeva veramente sempre di tutto e i professori si incazzavano. Però vabbè, insomma, queste sono altre storie. No, io l'ho vissuto abbastanza tranquillo, cioè c'era e basta, ma non era una cosa che ancora era negli occhi di qualcuno, c'era, ma non destava interesse né particolare attenzione. Poi poco più avanti probabilmente si è cominciato a dire ma perché, per come, fino ad arrivare oggi. Poi io non so se vi viene in mente qualcos'altro, però per concludere un po' il setting, diciamo l'environment, insomma, della sezione, insomma, alla fine c'era l'armadietto e l'aula tecnica, o quella dove si facevano le proiezioni, cioè quell'aula dove ci si andava rarissimamente perché si facevano le cose speciali, no? Dove si faceva magari il ciclostilo, hai visto quando facevano, non so se vanno fatto fa mai le stampe. Sì, il ciclostilo me lo ricordo, ma lo ricordo più quando ero in chiesa a fare il chierichetto. Si ciclostilavano tutti i vari fogli da dare poi ai studenti. Noi quando si faceva sempre in funzione didattica si spiegava come nasceva la stampa, come funzionava la stampa e si facevano praticamente... E mi ricordo che all'elementari, l'ultimo anno, mi ricordo questa cosa del giornalino, del piccolo giornalino, che ovviamente fatto insomma con la maestria, la maestra che ti spiegava come mette le cose e poi dopo con l'inchiostro. Io invece mi ricordo, giornalino no, però mi ricordo che la nostra maestra un anno ci ha fatto fare il vino in classe. No, quello no. Io mi ricordo i fagioli, la pianta dei fagioli, quella sì, mi ricordo. Io per roba di alimentazione dobbiamo passare alle medie, elementari proprio non era una scuola abbastanza molto molto classica. C'è che un succede? Che suona, che non è sono io, sono io. Eccolo, sempre sono venuti Roberto a prendere gli alieni. Mi sono venuti a prendere. Hai impostato la foto di te con la moto della polizia, sono andata. Beh, chiaro. Ma è il tuo o è quello di un vicino? No, sarà l'allarme antincendio, vabbè, ma al massimo bruciamo. Ah, vabbè. Perché tu sei in albergo. Sì, qui devi sapere che ogni tanto qualcuno fuma in stanza, da qualche parte succede il casino, ma intanto mi muto, voi andate avanti. Ok. Vabbè, dai. No, comunque io ho messo la foto della mia prima elementare, se volete controllare i fiocchi blu. Ma io non ce l'ho più, ragazzo. Eri già colori tu. Eh sì, 76-77. Io le medie comincio a averla colori. Va bene. Io comunque quando vedo queste foto mi sembrano tutte uguali, cioè nel senso mi sembrano tutti le foto sì, cioè uguali, cioè nel senso. Esatto. No, non riconosco la maestra, perché di chi cacchio è sta maestra, però anche i bambini non è che li riconosco proprio. Vediamo se trovo Carlo io però. Bravo, se mi trovate. Fammi vedere se troviamo Carlo. Vabbè, nel frattempo comunque andrei anche avanti con la trasmissione. E a questo punto, Davide, le scuole elementari un po' ne abbiamo parlato, quindi vediamo un attimo. Allora, il grembiule l'abbiamo detto, tra l'altro sì, la cartella. La cartella, ecco, io mi ricordo la cartella e non lo zaino alle elementari. I zaini sono arrivati alle medie. Sì, esatto. La cartella, quella dura, quella rettangolare, la pelle di mucca. Esatto, la cartella quella tosta che si metteva con le due spalle. Quella dura. La cartella, sì, no. Il cuoio, e aveva il sopra, me lo ricordo come se fosse adesso, fatto con la pelle con un po' di pelo, di mucca bianca e nera praticamente. Era questo non me lo ricordo. Era una roba orribile. La mucca non me la ricordo, devo dire la verità. Però. Io è facile che, come succedeva in tutte le famiglie dove ci sono tre fratelli, dove il primo ha la cartella nuova, poi va avanti nelle scuole e quella cartella non serve più, passa al secondo, il secondo va avanti e poi passa al terzo. Io avevo sempre la roba dei miei fratelli, grembiule, cartella. Vabbè, sì, quello in tutte le famiglie avevo tutto quello dei miei fratelli, anche i libri, perché i libri, sai, una volta il sussidiario o il libro durava 5 anni o 10 o 20, sì, cioè ma anche la cartella, no? Per esempio, cioè tutte quelle cose anche che poi tu hai utilizzato, se tu vai a vedere, erano cose che duravano. Cioè oggi penso sì, che sia cartella, difficile, sì, che andava avanti 5 anche anni. L'astuccio, anche tutto era quello dei miei fratelli. Poi mio fratello andava alle medie, era un'altra cartella, un altro astuccio, un'altra storia, passava all'altro fratello e via andare. Era un giro normale, ma i vestiti dei miei fratelli, tutto si girava, cioè, loro crescevano e si passava, come è successo anche con i miei figli hanno vestito i vestiti di qualche mio vicino di casa. Abbiamo fatto in tempo a, sai, i vestiti dei neonati durano 2 mesi, 6 mesi, poi dopo lì non vanno più, quindi li trovi da dare a qualcuno. Comunque la cartella me la ricordo, la cartella proprio quello che c'è un ricordo vivido di come l'ha fatta, ma non riesco a trovare un equivalente. La rossa con questa parte, io ce l'avevo proprio di marrone, proprio di cuoio, bella dura. No, marrone anch'io di cuoio. Sì, sì. E può anche darsi che la cartella che aveva mio fratello era a sua volta la cartella magari di mio padre, che è andata avanti finché, ma quella dura in eterno, cioè quella, anche se veniva la bomba atomica di Indiana Jones nel teschio di cristallo, era ancora lì la cartella, non c'era mica. Io devo dire che più o meno, avendoci soltanto un anno di distanza con mio fratello, alla fine la roba che utilizzavo io era la roba che compravano a me, quindi cioè nel senso con un anno no, è chiaro che e quindi alla fine e quindi lui aveva la sua cartella, io avevo la mia cartella, ma io mi ricordo sta cartella che poi alla fine era già bella dura e pesante di suo. Tu hai detto che andavi nella stessa classe di tuo fratello? No, io andavo nella stessa classe, cioè sono stato nella stessa classe solo all'asilo perché comunque all'asilo. Dato che andava lui andavo anch'io, nel senso solo per quello, se no no io un anno di differenza, un anno meno, sì. E mi ricordo questa cosa, che questa cartella che comunque era bella pesante, poi ci mettevi le cose dentro e andavamo veramente come i muli praticamente, insomma, nel senso, questa è una cosa che ricordo. Ma anche adesso adesso ci sono cartelle da degli zaini da 30 kg. Sì, sì, è vero. Questo forse è una cosa che magari non è mai cambiata più di tanto, a parte quelli che non ce vanno proprio con i libri a scuola. Io per esempio alle medie e alle superiori a un certo punto proprio non mi portavo proprio più niente, quindi... Sì, hai ragione. Confermo. Io no. Sai cosa, che se non ricordo male alle elementari si lasciavano a scuola le cose sotto al banco. Beh, a parte che alle elementari avevamo due libri, cosa avevamo? Un libro. Sì, ma rimanevano sotto al banco. Io andavo su, c'era sempre il nostro banco, tu arrivavi al tuo banco e sotto c'erano i quaderni e i libri. No, non credo che era solo un libro, io credo che erano almeno due o tre, perché era comunque quello delle lettere, quello dei numeri, cioè io credo che erano. C'era il sussidiario diversi. Che faceva un po' il sussidiario, tutto. C'era sussidiario, però non era l'elementare il sussidiario, il sussidiario era le medie, quindi infatti c'era. Ma cioè, sei vabbè. Sicuro? Sì, abbastanza, sì. Ma no, al medie c'erano. No, io me lo ricordo alle elementari, e alle medie avevo i libri. No, le materie. È l'elementare il sussidiario. Sussidiario era l'elementare, c'era solo quello. Che secondo me. Vabbè, dopo guardiamo. Comunque. Cinque anni dopo, secondo me, potrebbe essere cambiata la storia. Io me lo ricordo così, però tu avessi. Io mi ricordo sussidiario, che era l'abecedario prima, poi è diventato sussidiario all'elementare, libro unico con dentro tutto. A me abecedario, e poi dopo abecedario comunque, cioè, però io c'avevo l'abecedario. E il sussidiario ce l'avevo alle medie, quindi proprio me lo ricordo sta cosa, perché. Sul sussidiario, tra l'altro, ma sì, infatti non ci andate, fa un cazzo, noi dovevamo andavamo per spiccio e. Comunque tu hai evidenziato e passato il rapporto che si formava tra alunni e maestra, ma l'hai detto forse prima, sintetizzato in due parole, che era quasi una seconda mamma la maestra fondamentalmente, sì. Il rapporto che si veniva a formare era veramente quasi di seconda mamma, perché poi vedevo quasi più la maestra che mia mamma. Togli quasi, cioè. Arrivavo a casa e andavo in giardino e chi la vedeva non la vedevo mia madre. Ah, ma poi c'era proprio questa funzione di accompagnamento nell'evoluzione verso la scuola dopo, no? Quella più importante, era veramente una sorta di chioccia la maestra ed eri fortunato, e quindi alla fine avrai sicuramente conservato un buon ricordo se era una maestra decente, non dal punto di vista proprio pedagogico, ma proprio umanamente, perché purtroppo come sappiamo la mia era grandissima, io ne ho un ricordo eccezionale, era una signorina non sposata, reduce dalla guerra, quindi aveva tutti i racconti chiaramente che era una ragazza durante la guerra, e incredibile, cioè per i suoi bambini era una zitella. La tua hai detto signorina non sposata. Era la signorina, la chiamavamo. Sì, la zitella, poi non sappiamo che festini Sadomaso faceva quando tornava a casa, però. La cosa incredibile è che per lei l'unica cosa che esisteva erano i bambini, la scuola, faceva le lezioni, chi non arrivava le faceva andare a casa sua, faceva ripetizioni, a me addirittura le medie, gratis, cioè sia chiaro. Sì, no, ma per alcune era proprio una missione, ragazzi. Esatto, era un periodo in cui c'era una certa anche soddisfazione nel fare questo tipo di cose, perché vedevi il tuo lavoro che prendeva forma. Oggi invece ti viene voglia solo di prenderli a schiaffi, cioè, è diverso. Beh, adesso il contrasto è dovuto al fatto che molti fanno questo lavoro e lo fanno in maniera sbagliata, perché lo fanno in condizioni sbagliate, e si trovano magari dall'altra parte anche ragazzi che, come li guardi in faccia, arrivano i genitori e dicono: ah, ma che vi ho fatto a mio figlio? È molto diverso, e non è stato sempre il discorso meglio o peggio. Però ecco, no, certo. Questa questione dell'insegnante, ho detto, se ti capitava bene era un grande vantaggio, perché era veramente un accompagnamento, era una chioccia la maestra. Figurati, se avesse detto la mia maestra qualcosa a mio padre mi uccideva a me, mica la maestra. Esatto. No, ma infatti era questo. Era così. Io infatti era così all'epoca. Dopo ci voglio arrivare con le medie su questa cosa, perché infatti ho inserito un punto, perché quello è un punto anche focale, che fa capire anche come è cambiato proprio il rapporto tra alunno, genitore e insegnante, e molte volte gli insegnanti abusavano, diciamo, di questo loro questa loro credenzialità istituzionale, no? Cioè, nel senso, comunque il fatto che comunque il valore di quello che diceva l'insegnante era 10 volte superiore a quello che dicevi te, e a volte questa cosa non era proprio così. Sai cosa c'era anche? C'era anche che nei miei tempi, era vero, era reale, i genitori, i miei genitori, i genitori dei miei compagni effettivamente avevano un livello culturale molto basso, perché comunque arrivavano da un periodo in cui, insomma, anche loro, la guerra, quello che vuoi, e quindi c'era un senso di inferiorità, sì, anche, sì, da parte dei genitori stessi verso questi insegnanti, e quindi c'era il rispetto. Sì, però io è vero, sì, quello che dici te, però è vero pure che io lo vedevo a raffronto con mia madre, che era una persona mediamente istruita, una persona che comunque era diplomata, che era ha fatto il liceo artistico, insomma era, insomma, una persona preparata, comunque che aveva una, sì, equivalente, ciò non poteva confrontarsi, avrebbe potuto fare anche l'insegnante. Poi quando siamo nati noi, se no il suo sogno era quello di fare l'insegnante, però il suo rapporto nei confronti dell'insegnante era quello che l'insegnante aveva comunque questa posizione istituzionale, e quindi alla fine aveva più credibilità rispetto a tutto il resto. Ma per me è ancora così, cioè, adesso, fermo restando che spero di essere in grado di riconoscere se sono uno stronzo anche con, però tolti queste eccezioni, per me l'insegnante ha un ruolo importante istituzionale, chiamalo come vuoi, è vero, non è, c'è ancora. Sì, però è vero, però secondo me la società è cambiato, non c'è più il rispetto, esatto, della figura dell'insegnante, okay, come quando eravamo piccoli noi, è completamente cambiato nella società, cambiato. No, so. Questo, sì. Vabbè, questa è una cosa individuale, anche per me conta, ma il punto fondamentale è che a livello nella società dell'epoca, se tu eri il maestro, la maestra, anche a livello di paese, ti parlo all'epoca, era, certo, una figura importante. Il professore, sì, sì, sì, il professore, il dottore, il prete, il carabiniere, certo. Adesso invece ha una figura che anzi non solo non viene considerata, ma viene spesso anche denigrata. La stessa figura, cioè io adesso non farei mai l'insegnante se dovessi mai farlo, nella se dovessi mai scegliere. Nella vita, sì, è vero. Ma no, cioè, è il lavoro più brutto del mondo in questo momento. È anche vero, dal punto di vista, è anche vero anche che se secondo me si è. Cioè il professore lo faceva con il criterio, anche magari quello non particolarmente soddisfatto del suo lavoro, comunque aveva un rispetto di se stesso e della propria professione, cosa che però dall'altra parte oggi, cioè io mi sono trovato, cioè io con Matteo quando lui tornava, ah maestra c'ha con me, al professore c'ha con me, a quella, cioè, io ho sempre detto sono tutte cazzate, perché ogni volta che tu cerchi di trovare una giustificazione che sono gli altri che ce l'hanno con te, è chiaramente, voglio dire, è un modo di giustificare il fatto che tu in qualche maniera non stai facendo il tuo dovere, e questo è il modo in cui ragionava mia madre anche, no? E poi quando io mi sono rapportato con alcuni insegnanti, a me mi sono cascati i capelli. Mi sono cascati i capelli, perché secondo me se gli alunni, ecco, oggi hai fatto perdere i capelli. Esatto, bravo, perché se oggi comunque i ragazzi non hanno il rispetto per l'istituzione, per la figura dell'insegnante, gli insegnanti oggi affrontano questa cosa con una superficialità a volte disarmante. Cioè io ho visto, c'era un insegnante che alla fine gli ha rotto il cazzo a Matteo, ma era una ragazzina, cioè avrà avuto 3-4 anni più grande di lui, e ci litigava, cioè, capito qual è il problema di fondo? Cioè tu litighi con un alunno, capisci? Cioè io ho detto, ragazzi, io vabbè in quel caso ovviamente purtroppo avrei dovuto giustamente contenermi, però gli ho detto, cioè raga, ma che cazzo state a fare? Cioè, ma lei, questo sarebbe il modo in cui questi fanno gli insegnanti, cioè questa, perché io quello davanti alla preside ho detto, questa sta a litigare con l'alunno e pretende pure di averci una posizione, come posso dire, di credibilità rispetto a lui, che per me non c'ha, cioè per me è al pari, cioè nel senso, comunque vabbè, al di là di questo, che purtroppo poi è un discorso che trova cioè il tempo che trova, diciamo che una cosa che invece ha scritto Davide a me in effetti mi ci ha fatto pensare, perché era una regola questa non era un, era un piacere sicuramente, ma poi alla fine era uno di quei piaceri che diventano quasi una sorta di regola tradizionale, non scritta, no? Esatto, no, però tradizionale, cioè i regali alla maestra, perché in effetti a fine anno ste maestre, alla fine, ma non solo a fine anno, io mi ricordo pure a Natale comunque, però sì, era una cosa abbastanza, cioè alla fine queste cazzo usava, le maestre si portavano a casa la beata, la beata roba, io dire sì, c'erano una serie di tradizioni che si usavano, si faceva la colletta, si tiravano su dei soldi, se ne occupava una mamma o due, esatto, si dava in carico, raccoglievano, sì. E alla fine, questo si è usato ancora all'epoca di mia figlia e mio figlio, sì, qua sì, in paese c'era ancora, però non usare tutti i Natali a fine giro, cioè quando i figli hanno finito la scuola, sì, e sì, avrebbero sì, salutato sì, per sempre questa maestra, sì, allora scattava il regalo di addio, chiamiamolo così. Ah, io mi ricordo un po' tutti gli anni a Natale e poi quello finale, sì, è vero, hai ragione, sì. E quello finale, vabbè, invece adesso ormai se il rapporto è buono, chiaramente se l'insegnante è buona e ha avuto con gli alunni un rapporto come quello che noi ci ricordiamo con le nostre insegnanti delle elementari, c'è il regalo Natale. Se invece il rapporto è di una buzzurrona, qualsiasi, due dita negli occhi e via, e ciao e ci vediamo e ti saluto e non ti vedrò mai più vedere e me ne vado alle medie. Io però pure alle medie, no, comunque mi ricordo che alcuni professori beccavano un sacco, sì, di regali, ma io Simone, che ho avuto dei professori, facciamo c'è un brano intermedio, sì, adesso sì, sì. No, volevo finisco solo questo e poi andiamo, sì, finiamo tipo l'elementare, andiamo molto, esatto, andiamo molto veloci, perché le foto di classe che si facevano in giardino, e vabbè, le abbiamo viste, abbiamo tirate quelle. Poi io mi ricordo che all'elementare addirittura si facevano anche le foto singole con i giocattoli davanti, so se vi ricordate. A me da no, quello all'asilo. All'asilo, bravo, scusa, hai ragione, scusa, sono confuso. Cosa si faceva? Sì, hai ragione, all'asilo col banco. Col banco, col giocattolo bravo, davanti. Bravo, sì, esatto. Sì, sì, sì. Cosa si faceva all'asilo nell'intervallo? Noi a volte giocavamo anche in cortile, un quarto d'ora, ma pure questo, vabbè, il calcio nei corridoi era proprio... ma quello pure alle medie e alle superiori, devo dire la verità. Io mi ricordo molto il dopo scuola, che si chiamava anche il tempo pieno, quindi praticamente tu rimanevi a scuola, mangiavi nella mensa. Oggi sento tantissimo lamentarsi la mensa, che brutta cosa, esatto, guarda, io sento oggi lamentarsi tanto le persone del fatto, ah, nella mensa hanno trovato questo, l'ho trovato quell'altro, cioè, ma noi c'eravamo a Aciura che veniva lì io mi ricordo il bidello che passava a vendere le merendine, esatto, nelle classi. No, quello... no, io la mensa col tempo pieno per me era un incubo, era brodaglia. Io ero pure schizzinoso, ospedale, cioè io non la mangiavo, gli dicevo vaffanculo, non te la mangio. C'era una maestra che non era la mia maestra, una di quelle stupide, cioè lei mi teneva là un'ora davanti a sto piatto, io ho detto, guarda, mi puoi tenere anche 5 ore, io ancora non te la mangio, sai, quel brodo schifoso. Sì. Mi puoi tenere tutto quello che vuoi, non te la mangio. Io guarda, devo dire la verità che in alcuni casi sono stato fortunato, che la roba non, cioè, vabbè, non era quello che, però insomma si poteva fare. Io mi ricordo le frittate, mi c'erano tantissime frittate, però se io penso alle condizioni in cui si faceva sta roba, forse è tipo mensa militare, per capirci, cioè, sì però, cioè, nel senso, oggi si fa molta attenzione, no, viene il catering, tutto igienizzato, lì c'era l'asciura col cucinone, sì, che c'era pentolone, già nella scuola con i pentoloni, facevano lì il minestrone che come veniva e te lo dovevi mangiare, perché sennò poi magari dopo comunque gli insegnanti te mettevano la punizione anche, insomma, cioè, quindi alla fine se vai a vedere comunque c'erano anche tutte questo tipo di situazioni qua, però ecco, il dopo scuola, quindi il tempo pieno, dopo si facevano i compiti, si facevano direttamente a scuola e poi si facevano alcune attività che erano collaterali ma non erano le attività proprio scolastiche, quindi le vere e proprie materie, però ti faceva specie se tu non eri abituato a fare il tempo pieno. Io per esempio l'ho fatto per solo un anno e non ero abituato, quindi per me era anomalo proprio visivamente stare dentro scuola e vedere la classe con una luce diversa da quella che tu sei abituato a vederla, che era quella della mattina praticamente, no? Non so se mi è mai capitato. Io non l'ho mai vissuta perché comunque abitavo veramente a 3 minuti dalla scuola e mia mamma non lavorava, quindi era sempre a casa, e quindi tutti abbiamo fatto il tempo, non abbiamo mai fatto il tempo pieno, si tornava a casa, si mangiava a casa, non ho mai usufruito della mensa, e ti dirò che non mi ricordo neanche se ci fosse stata, ma penso di sì, perché era abbastanza, credo, comune un po' a tutti, sì. Però io non l'ho mai fatto e quindi non lo so com'era la storia. Ti sei salvato. E sono salvato, sì. E soprattutto io abitavo in un grosso conglomerato di caseggiati popolari molto grandi, e quasi tutti i miei compagni di classe abitavano nel mio palazzo, cioè eravamo anche finita la scuola tutti assieme, tornavamo a casa e poi nel resto del tempo giocavamo assieme in giardino, cioè per noi era una vita costante di stare assieme tra compagni di classe e non, perché no, arrivavamo tutti più o meno dallo stesso posto. No, io questa esperienza così non ce l'ho in questo modo, cioè io erano tutti sparpagliati, quindi gli amici che avevo nel quartiere, quindi gli amici del palazzo erano gli amici del palazzo, gli amici di scuola erano gli amici di scuola, e gli amici del mare, come dicevamo l'altra volta, erano gli amici del mare, per esempio. Insomma, quindi, esatto. Vabbè, facciamo un attimo una piccola pausa e ritorniamo, così diamo anche un'occhiata a quello che hanno scritto in chat, con un brano che, vabbè, adesso lo sentite, insomma, lo riconoscerete subito. Non lo sentiamo tutto perché dura veramente uno sfottio, dura quasi 7 minuti, però insomma poi dopo ne parliamo magari rientrando. Voilà. Vabbè. Allora, avete riconosciuto il brano, Carlo? Tu l'hai riconosciuto? La canzone autobiografica. L'ho scritta io, praticamente. No, comunque bellissimo. No? Gli Eli sono proprio la costruzione del brano, la musica, come è fatta, tutto bello di questa canzone. Mi piace tantissimo. Mi è sempre piaciuta sin da quando è uscita, no? Forza Panino rimane nella storia della musica italiana. Infatti, tu non hai voluto mettere cassonetto differenziato, scusa. Ma cassonetto cosa c'entra con le medie, con la scuola? C'entra. Comunque anche cassonetto era bella. Grandi Elio. Comunque, vabbè, questo ci introduce alle scuole medie, che è un... Nel mio caso specifico ci siamo spostati di 100 metri. Aspetta un secondo, che cos'è? Sì. Non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se esatto. Si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Esatto. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. E io: andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Grande Nanni Moretti, ragazzi. Nanni Moretti, un mito. Questo film è capolavoro. Comunque, sì. Vai, scusa, Davide, ti interrompo. No, nel senso che, vabbè, questo ci introduce in tutti i modi, in modo o nell'altro, ci introduce alle scuole medie, dove è cambiato la pubertà. È cambiato tutto, è cambiato molto, è cambiato anche, direi, tutto, sì. E nel mio caso logisticamente è cambiato poco, perché l'elementare era attaccata alle medie, quindi per me era come andare nello stesso posto, solo che era la stessa scuola in pratica, però in effetti lì sono cominciate tutta una serie di cose diverse, il modo di studiare. Poi le medie le ho fatte molto particolari, le ho fatte in 2 scuole diverse. Il primo anno l'ho fatto mezzo in una scuola, mezzo in un'altra. Il secondo anno l'ho fatto in una scuola. Il terzo anno l'ho fatto mezzo in una, mezzo in un'altra. E quindi ho fatto la scuola in modo un po' strano e ho vissuto 2 realtà diverse, in qualche modo comuni ma diverse, perché lì in realtà erano scuole molto diverse una dall'altra. Una era una scuola privata, era una scuola pubblica, e quindi ho visto due diverse realtà. Forse l'avevo già raccontato, forse in un runtime di notte. Io nella mia gioventù ho passato alcuni mesi in una sorta di nel centro oxologico, chi lo conosce, insomma, a Piancavallo c'è un centro oxologico che è un posto un po' alla Fantozzi, molto simile a quello che raccontava Fantozzi con il tu mancia. Era un posto dove io sono andato, mi hanno portato a una sorta di collegio, chiamiamolo così, era un centro specializzato per la cura dei disturbi dell'alimentazione e di tante altre cose, a Piancavallo, che è su nella zona Piemonte, e ti mollano lì e lì stai lì finché non esci riparato, nel mio caso peso forma. E sono stato 6 mesi lì a fare la scuola lì, seguito dai medici, seguito tutto, facendo una dieta, facendo un percorso, tutto così, e ho fatto la scuola lì, c'erano anche le scuole. Però poi, una volta che avevo finito il mio percorso, sono ritornato a casa e mi sono stato reintegrato nella mia scuola, quella vicino a casa. Questo in prima media e in terza media, perché sono 2 volte lì, perché la prima volta mi hanno riparato, poi per un anno sono ritornato come prima e mi hanno riparato una seconda volta, poi mi ha detto: ragazzi, 2 volte, poi mai più, non si può più. E quindi ho vissuto queste realtà un po' così strane, dove là era un altro metodo di insegnamento. Se devo dire la verità, ho imparato molto di più in quei 6 mesi che nei 6 mesi successivi, nonostante devo dire che il ricordo più bello della scuola che ho è proprio nelle scuole medie e nei professori e negli insegnanti, che quelli nella mia scuola media, che era una scuola in una zona popolare molto molto difficile, se vogliamo, erano però veramente tosti questi professori. Questa professoressa, praticamente la professoressa d'italiano, la professoressa d'inglese, che ancora oggi con loro comunico su Facebook, abbiamo ancora contatti, è stato proprio un rapporto quasi d'amore tra questi insegnanti e gli alunni, dove abbiamo fatto veramente tante cose, avevano un sacco di iniziative fuori da quello che poteva essere il piano formativo. Il piano formativo prevedeva un percorso, loro invece ne facevano con noi un altro, ed è stata un'avventura molto, molto entusiasmante. Cioè, mi piaceva andare a scuola quasi, ti dirò. Perché erano dei grandi, qualcuno nell'elenco ha messo i bravi professori e i pessimi professori. Io ritengo di aver avuto veramente i bravi professori, forse che i più bravi, non li ho, più bravi di così non ne potrei aver avuti, e non ho avuto i pessimi, mentre invece a quanto pare si vede che tu avrai avuto i pessimi, secondo me. Beh, io ho avuto più alle superiori i bravi professori, cioè gente che mi ha fatto veramente amare certe materie, ma anche alle medie, volendo, ma ho avuto prevalentemente i pessimi professori alle medie, anche se medie e superiori sono il momento in cui ricordo con più divertimento in generale, cioè momenti che sai quando vai a scuola e dici ah, vedo l'ora che finisca a scuola, non vedo l'ora andare a lavorare, poi dopo riguardi indietro, cioè cazzo quanto sono stato bene a scuola io, perché poi alla fine è così. Però in particolare per quanto riguarda i pessimi professori, io ho avuto l'esperienza che molti ragazzi romani hanno avuto a Roma, appunto, che era quella del professore, del ministeriale, di quello che veniva lì perché c'aveva la cattedra, che magari non era mancava sua, perché comunque in qualche maniera si è trovato, che comunque era insoddisfatto, che comunque la vita gli andava male, perché e allora rifletteva tutto su quello che era ovviamente il lavoro che doveva fare in teoria con passione, invece lo faceva con disincanto, con a volte anche con cinismo e secondo me a volte anche con malizia e cattiveria in determinati casi. In particolare, questo forse l'ho già raccontato da qualche parte, io c'avevo una professoressa di italiano, la professoressa Barca, che suppongo sia morta probabilmente, ma se non lo è, speri sia morta, ma se, non lo è, spero che sia lì insomma, quantomeno con lentezza, però vada con lentezza, che la morte non si augura mai, ma in questo caso c'è un'eccezione. No, io infatti non le auguro la morte, le auguro di andare con lentezza, che è ancora meglio, di soffrire. esatto, perché era una persona secondo me non solo che ha fatto danni. Parte danni, non era solo cattiva, perché non era cattiva in particolare con me. Poi era un momento particolare della mia vita, perché io nelle medie addirittura un anno sono stato bocciato, perché sono stato 4 mesi in Nuova Zelanda, perché in quello era un momento in cui dal punto di vista proprio clinico io ho avuto tanti problemi, quindi sono dovuto stare in Nuova Zelanda per fare gli interventi, insomma tutta una serie di cose, no? E questa professoressa, pur sapendo comunque che c'erano queste difficoltà, lei comunque s'accaniva verso di me, evidentemente, boh, forse perché pensava di colpire, spronarti, cioè. Forse no, secondo me proprio il senso era quello del colpire, non era quello del, cioè nel senso, se io lo faccio a un altro magari un altro non gliene frega, ma a lui secondo me gli faccio più del male, no, in qualche maniera. E la cosa che mi fece proprio più arrabbiare in generale, che secondo me poi alla fine è il motivo per cui ho odiato in maniera viscerale questa persona molto di più di quanto ho mai odiato nessuno in generale nella mia vita, è che lei questa cosa la rifletteva anche su mia madre, che e ritorniamo al discorso che dicevamo prima, ovviamente avendo questa sua predisposizione verso il credere incondizionatamente a quello che diceva un professore, alla fine la prendevano per culo, cioè lei la prendeva in giro a mia madre in pratica, e anche dicendo cose su di me che ovviamente la facevano soffrire, perché chiaramente insomma era sempre mia madre, insomma, nel senso che non è che era contenta a sentire magari determinate situazioni. Ma la cosa che mi ha sempre divertito è che alla fine io con questa persona mi sono messo sempre sapete quando a un certo punto si spezza, come posso dire, una sorta di membrana, no? Di protezione quasi, e a un certo punto tu sai che qualsiasi cosa tu farai, tanto lei più di quello non te può fare, no? E quindi io ero diventato il nemico acerrimo di questa persona e gliel'ho fatte passare male da alunno, gliel'ho fatte passare male in ogni situazione, proprio perché per me doveva schiattare, cioè una persona che ma in generale però confrontandomi anche con tante altre persone, non so nel resto d'Italia, ma a Roma questa situazione era abbastanza frequente, perché comunque alla fine si trovava il posto in graduatoria, si trovava così anche perché magari eri in un determinato contesto, conoscevi determinate persone, e quindi tantissimi facevano il mestiere dell'insegnante non avendo minimamente la vocazione di fare l'insegnante, se non addirittura appunto utilizzando, avevano solo il titolo, avevano, sì, esatto, magari utilizzandolo proprio per sfogare frustrazioni che prescindevano dall'insegnamento e portando dentro la classe quello che magari c'erano dentro casa, no, in generale. Quindi ho visto dei danni incalcolabili fatti da svariati professori in svariate classi, ma anche in svariate scuole, quindi in generale questa cosa da pessimi professori, eh, insomma. Sì, perché purtroppo questa cosa in Italia non era poi così consueta, diciamo, in generale, ma ribadisco in particolare a Roma, perché a Roma poi c'è, Roma è una città, è stata una città particolare, no? Perché lo è ancora, però in particolare in un momento in cui forse c'era meno consapevolezza di questo, ma Roma è una città politica, cioè nel senso, quando io ero ministeriale, diciamo così, mi dava i nervi venire a Roma, ogni tanto dovevo farlo, perché cioè per noi che non nello stesso ministero che non lavoravamo a Roma, avevamo il disprezzo di Roma. Io arrivavo alle 8, io ti dico, fino alle 9 e mezza negli uffici non c'era nessuno. Arrivavano gli unici, perché nel resto d'Italia non funziona così, con l'autobus ministeriale, e non so se lo sai, se tu entri nell'orario giusto nell'autobus ministeriale che viene a prenderti nelle varie città satelliti, se arrivi al ministero anche 8 ore dopo perché c'è traffico, non sei in ritardo. Se non lo sapete ve lo dico io. Quindi noi arrivavamo da fuori per fare quelle quattro cose che dovevamo fare, alle 8 c'era un'ora, dopodiché il ministeriale che arriva con l'autobus cosa fa? Vediamo se indovinate, appena arrivato al ministero va a bere il caffè. Cioè tu in pratica molti uffici fino alle 10:15 non aprono. Sì, sì, ma... tu vai alle 10:15 se riesci a fare quella cosa che devi fare, dopodiché verso circa un'ora, queste sembrano leggende metropolitane, ma almeno nel mio vissuto non è così, cominciano a pensare che devono andare a mangiare. Cioè, è una roba. Tu considera che io c'avevo un mio amico, un mio carissimo amico, che aveva il padre che lavorava al Ministero del Lavoro. Poi mi viene da ridere, perché a volte veramente ci sono certe situazioni che sembrano paradossali, perché sembrano macchiette. Ovviamente stiamo parlando di 30 anni fa, mo magari le cose non tantissimo, ma magari in certe situazioni magari saranno anche migliorate. Io non so quanto, perché non ho proprio più modo. No? Però lui lavorava al Ministero del Lavoro lavorava all'interno del Ministero del Lavoro, quindi era assunto a tempo indeterminato, uno stipendio e tutto quanto, e non aveva un lavoro fondamentalmente. Non aveva una mansione, non era né l'usciere né il... Lui stava lì, cioè aveva una stanza. Stava lì, cioè aveva una stanza, c'era una scrivania e leggeva il giornale, cioè non aveva una funzione. Poi se qualcuno lo chiamava e diceva: "Oh, ma io ti a svitare la lampadina", magari gli dava pure una mano, però cioè, capito? Magari, magari, sì, ma perché, magari perché non era la sua funzione, cioè nel senso. Noi non avevamo funzione. Non volevamo venire a Roma perché era una perdita immane di tempo, e c'era proprio uno schifo, cioè per noi venire alla parte centrale era, almeno in alcuni posti, non voglio dire ovunque, era visto come una cosa schifosa, non ci volevamo venire. Io quelle volte che dovevo venire a Roma, per me era una rottura di scatole immane. Sembra di sentire la parodia di Checco Zalone purtroppo negli anni 70 e 80 questa cosa era all'ennesima potenza, pure anni 90 inizio sì, 2000 sì, però dico, c'ero cioè, io. Nel senso, comunque negli anni 70 e 80 era all'ennesima potenza, fuori poi da dopo, Roma non è così, vabbè. Poi fai il discorso che Milano da bere era bellissimo e Roma era una merda, no? Nel senso, boh, non dobbiamo riassumere in questo il discorso. A Roma cinghiali, statali dappertutto, quindi gli statali anche a Milano non si comportavano tanto diversamente dagli statali di Roma. Ecco. Era un po', guarda, ti posso garantire un po' diverso invece. Roma era un ambito molto particolare. Vabbè. Carlo, tu invece come hai avuto gli insegnanti? Io, come ho accennato prima, per me c'è stato un stravolgimento della mia vita praticamente, perché io ero nato e vissuto in un paese di provincia, della provincia milanese, settimo milanese, che anche seppur attaccato a Milano era pur sempre un paese, adesso è un paesone, una città, però all'epoca era un paese come si può pensare adesso un paese di campagna, più o meno, sai, non dico che si conoscevano tutti, ma poco ci manca, cioè anche se erano qualche migliaio di abitanti. Di Sant'Agostino. Sì, sette pagine di Sant'Agostino. Era forte perché dici Sant'Agostino chi? Quello delle biciclette, quello del... O il fabbro. L'elettricista o il fabbro, o il ferramento. Erano tutti e tre Sant'Agostino, ovviamente. Vabbè, comunque, cosa successe? Che io ho fatto l'asilo e l'elementare a settimo nel mio paese, con la scuola del paese, eccetera. Anche a me le medie del paese erano, c'era dove si faceva le elementari, a 10 metri c'era l'edificio dove si facevano le medie. E quindi io mi sarei dovuto spostare di circa 10 metri dalla quinta elementare alle medie. E invece i miei genitori, non si sa bene per quale motivo, allora, un po' per moda credo a quell'epoca, perché mio padre comunque, la mia famiglia era benestante, mio padre era un piccolo imprenditore, dopo che mio nonno e il mio bisnonno avevano la ferramenta, lui aveva aperto l'azienda di metalmeccanica con gli operai, eccetera. E in quegli anni, stiamo parlando del 1981 circa, 81-82, e quando io ho fatto la prima media, e c'era l'usanza a Milano soprattutto di mandare i figli nelle scuole, diciamo, d'élite, quindi la scuola, il collegio privato di Milano. Milano ce n'erano diversi, importanti, magari alcuni nomi li conoscete, tipo il San Carlo, che è ancora famoso adesso. Quello di Abadie. I Salesiani. Salesiani, ecco. Io ho fatto una scuola che adesso non c'è più, si chiamava San Celso, Collegio Parificato San Celso di Milano. In pratica mi hai deciso che io dovevo andare al collegio di Milano. Fu veramente uno stravolgimento, perché mi dovevo svegliare tipo la mattina, era un collegio ma andavo e tornavo, andavo la mattina e tornavo la sera, perché ero comunque di Milano, mentre la gente che veniva da fuori aveva le camere per dormire lì, eccetera. Però era un collegio perché mi veniva a prendere l'autobus privato della scuola che faceva il giro, ce n'erano tre o quattro, veniva a prendere tipo la mattina alle 6:30 di mattina, passava da settimo e si partiva e si andava a scuola, e la sera poi ti riportava a casa tipo alle 5-6 di sera, ti prendeva e ti riportava a casa. Stavo tutto il giorno a scuola, dove c'era un ambiente completamente diverso dalla scuola normale, tra virgolette, perché tu sì, facevi scuola, però avevi anche tutte le attività all'interno della scuola. C'erano i prefetti, che erano quelli più grandi, che ti controllavano con le attività che facevi all'uscita dalla classe, eccetera. Avevamo il diario imposto. Io all'elementare avevo il diario che volevo io, mi volevo prendere il diario con Goldrake, Mazinga, no. Tu avevi il diario della scuola, quindi dovevi usare il diario, quello col marchio San Celso, eccetera. C'erano le attività sportive all'interno della scuola, era guarda, un'altra cosa, quindi chi non l'ha vissuta non è difficile da però ve la potete immaginare, insomma, questa era una specie di fare il militare, fare un lager, qualcosa. Ti prendevano, ti mandavano dentro e ti instradavano, ecco, in una certa maniera. Scioperi non esistevano, ovviamente, non c'era l'occupazione scolastica, non c'era tutto quello che c'era nelle scuole normali. Beh, la scuola privata, sì, era una scuola privata, ma non anche in questo caso c'erano scuole private e scuole private, no? Cioè, c'erano le scuole private che ci sono anche adesso, quelle dove paghi per essere promosso praticamente, no? Sai, quelle siano scuole private, ma in realtà sono scuole normali, dove in realtà non ti danno la garanzia della promozione del figlio, ecco, mettiamola così. Qua invece era proprio un collegio formativo, quindi era più una scuola militare, se vuoi. Nell'ambito c'erano i salesiani che erano nell'ambito religioso, e questa, anche se si chiamava San Celso, non era nell'ambito religioso, era comunque civile, quindi ragazzi e ragazze messi insieme. Però era, ecco, veniva pubblicizzata come la scuola che avrebbe dovuto formare gli imprenditori / direttori, eccetera, del futuro, cioè quelli che dovevano poi diventare direttore generale, più o meno una roba del genere, ecco. Poi devo dire che esatto, alle medie comunque la media dei professori che ho avuto è stata buona, perché alla fine comunque mi ricordo dei bravi professori. Più alle medie che al liceo. Al liceo, se devo fare proprio la somma, non è che ho avuto una gran che di grandi professori al liceo. E purtroppo lì, questo poi me ne sono reso conto negli anni uscendo, cioè c'era una formazione anche di tipo molto legata alla destra, quindi anche da un certo punto di vista politico, solo che all'epoca io non me ne rendevo conto. Me ne sono reso conto quando sono andato all'università, che ho scoperto cosa c'era fuori da queste scuole. Infatti io mi ricordo con molto più piacere l'università di quanto mi ricordi di quegli anni delle medie e delle superiori che ho fatto al liceo San Celso di Milano. Anche se li ricordo comunque con gioia, perché sono gli anni comunque della mia gioventù, eccetera, però devo dire che sono stati abbastanza rigidi come anni, come quello che ho vissuto, come formazione, come quello che si faceva, inquadrati, tutta una serie di cose che ho invidiato. Poi io comunque avevo gli amici del paese e sentivo cosa facevano loro, come tipo soprattutto alle superiori, questo è successo poi dopo, che cosa succedeva nelle loro scuole, cosa facevano, eccetera. Io dico, magari, no, da noi non è così, non si può fare questo, non si può fare quell'altro, insomma era abbastanza, anche il bigiare era più difficile, perché ovviamente c'era un controllo maggiore, c'era una comunicazione maggiore tra la scuola e e la famiglia, e se tu mancavi tipo per un giorno, poi veniva avvisata la famiglia e ti dicevano: ma come mai oggi suo figlio non è venuto? Cioè, non non è venuto? Come? Beh, d'altronde le scuole private, le scuole private, quelle parificate degli anni 80-90, era così, cioè, comunque davano sto servizio. Quindi oggi è diventato uno standard anche nelle scuole pubbliche, ma in generale questa era un'eccezione proprio di quelli che avevano la sfortuna, tra virgolette, di stare a una scuola privata, perché comunque tutta una serie di cose che tu potevi fare o che facevi nelle pubbliche non, insomma, era un po' più complicato, diciamo così. Sì, avevano un valore aggiunto che giustificava l'esistenza, tra virgolette, in qualche modo, perché comunque era un criterio di insegnamento forse più rigido, e che alla fine, nel senso, in qualche modo riuscivi a superare queste scuole, uscivi con probabilmente un bagaglio, che se la prendevi bene, ovviamente. Sì, certo. Tutti, ragazzi, c'erano anche diplomifici. Poi che sì, certo, sì. Quello che ho detto prima. C'erano anche. E la cosa. Ma quelli mi sa che esistono ancora, perché comunque. Sì, esistono ancora. I proprietari della scuola dove andavo, il San Censo, infatti, avevano anche il diplomificio. Infatti, loro cosa avevano? Avevano questa scuola e il collegio dove tu andavi. E dovevi essere rigido, e bocciavano, che era cosa che non era mai successa alle elementari, per esempio, o alle medie. Era impossibile essere bocciati. Sì, dovevi proprio essere un. Esatto. Invece qua ti rimandavano e ti bocciavano anche in prima media, seconda media, prima superiore, eccetera. Se venivi bocciato, questi qua ti prendevano e ti dicevano: se volete, potete fare questa scuola qui, che è sempre nostra, dove però fai 2 anni in 1, 3 anni in 1, e recuperate, cioè lì li mandavano fuori a calci, praticamente. Beh, però aspetta che i salesiani, noi abbiamo fatto uno sciopero. Tu l'hai mai fatto lo sciopero dei salesiani? E no, io non potevo fare sciopero a San Censo, non era possibile. Allora, non c'era, almeno da noi era possibile. Tu lo conosci il Gonzaga? Certo, era una di quelle scuole lì, il Gonzaga, il San Carlo, il San Celso, erano forse tutte la più famosa che c'è a Milano. Noi facemmo uno sciopero ad oltranza perché licenziarono il nostro professore di filosofia. Pensa a te. Facemmo sciopero, i tizi impazziti, i fratelli delle scuole cristiane, che i vari fratelli. Avevate scardinato una. Sì, guarda, non ti dico, io ho da qualche parte il libretto in cui non giustifica, sai che tu dici perché hai fatto l'assenza, c'era cioè, si giustifica. A noi scrissero col timbro: non si giustifica. Solo che dal momento che l'ha fatto tutta la scuola, non poterono cacciarci tutti, capisci? Quello era la. Ovviamente, è il valore di contestare tutti assieme, quello che è il valore aggiunto di fare una cosa tutti assieme, allora puoi avere un effetto. Beh, ma la difficoltà in strutture come quelle è proprio di trovare l'unanimità, no? Perché poi alla fine, esatto, c'è sempre quello che ti tradisce, c'è quello che si tira indietro, tutta una serie di cose. Comunque le scuole, quelle dei recuperi, in realtà erano scuole private non parificate. Il vantaggio, esatto, il vantaggio stava nel fatto che tu, siccome che ogni anno scolastico dovevi dare un esame per rettificare ovviamente il passaggio dell'anno, perché ovviamente le scuole non parificate non possono sancire quindi la promozione, proprio perché non sono parificate, sono riconosciute come istituto di recuperi, ma non come istituto scolastico vero e proprio. Legalmente riconosciute, credo si dica. Tu devi andare parificato. Tu devi andare all'istituto. No, tu devi andare all'istituto parificato ogni anno a fare l'esame. E all'istituto parificato, chiaramente, se tu gli dicevi che l'anno successivo saresti andato da loro, eri automaticamente promosso, cioè proprio da zero. Ma magari non ci andavi, ritornavi alla scuola da dove eri venuto, no? Però insomma, in generale, ecco, il discorso, il gioco delle scuole private non parificate e parificate era questo. L'unico problema è che quando tu arrivavi da privatista a un esame di maturità, lì ti inculavano proprio, cioè, ma ti inculavano proprio perché venivi da privatista, cioè nel senso era un sistema che io automatico, comprovato sulla mia pelle che effettivamente era così. Io pensavo fosse un po' una mezza leggenda, invece anche se tu facevi il meglio del meglio che tu potevi fare, comunque non superavi il 40, no? Quindi se no ti davano direttamente 36 e via, insomma, che poi quando ancora funzionavano quando ci si venivi promosso col 36, insomma. alla fine insomma, ecco, questo è un po' tutta una serie di meccanismi. Però ecco, Roberto, tu professori cattivi o buoni, come stavi? Allora, rapidamente devo dire, sono stato fortunato io, la grandissima maggioranza dei miei professori è buona, alcuni sono stati eccellenti, qualcuno raro, semplicemente scarso, quindi gente cattiva, voglio dire, non, grazie a Dio non l'ho avuta, non l'ho sperimentata. Io ho fatto le scuole pubbliche nel elementari e medie, il liceo ho fatto 3 anni e mezzo di scuola pubblica, poi essenzialmente la mia famiglia ebbe un fortissimo litigio con una professoressa e fui spostato dal liceo scientifico pubblico al Gonzaga, come ho detto prima, a un liceo privato. Quindi ho avuto 2 visioni che sono opposte, e poi in particolare del liceo, che diciamo è quella più caratterizzata, se vogliamo. E dal punto di vista, diciamo così, scientifico, probabilmente quella pubblica resta migliore. La mia esperienza è questa, però sebbene un istituto paritario, anche quella, il Gonzaga, erano buoni professori, non posso dire che erano, non erano affatto scarsi, anzi erano validi. E dal punto di vista scientifico però quella pubblica era migliore. E l'esperienza che ho avuto io però è molto diversa da quella che ha raccontato Carlo, nel senso che in teoria eravamo tutti inquadrati anche nella scuola dei Salesiani, però dietro le quinte, altrimenti scadiamo in un altro tipo di puntata, vi posso garantire comunque che era, anche perché soprattutto a Milano diciamo che è abbastanza costosa, quindi ci va gente, io ero il più povero sicuramente, per capirci. Il mio compagno di banco, quello che era dietro di me, possedeva un'isola, cioè molti erano industriali o comunque professionisti abbastanza... genitori chiaramente abbastanza impegnati, per cui c'era una vita dietro abbastanza, come posso definirla, libertina. Addirittura un giorno mi ricordo una circolare in cui ci dicevano che non si potevano fare festini, questo in una scuola cattolica, per darvi, per cui l'esperienza che ho avuto io è abbastanza diversa da quella. E paradossalmente quella invece, il liceo scientifico dove sono andato io a Milano, era molto più istituzionale, in pratica, lasciamo perdere l'etichetta. Quindi vediamo ancora come poi ogni singola esperienza può essere vissuta in maniera diversa. Detto ciò, io ho un buon ricordo in generale di tutto questo periodo e anche dei professori. Alcuni erano semplicemente scarsi, questo fa parte insomma della fortuna, della sfortuna che abbiamo. Quello di filosofia che cacciarono era uno di quei pochi che riusciva a rendere davvero interessante la materia, quindi non è quello che viene, legge il libro, fa, lui filosofia raccontava... Stiamo parlando di superiori, già parliamo di superiori, sì. E riusciva veramente a rendere interessante la materia, mentre nella scuola pubblica avevo una professoressa di filosofia cieca, tra l'altro, che era assolutamente incomprensibile, mezza maniaca, poi poverina, le abbiamo detto prima, le facevano ogni tipo di cosa schifosa, spaventavano il cane, cioè cose anche, voglio dire, un po' orride, un certo cattivo gusto, insomma, un certo cattivo gusto. Però lei non era minimamente brava. Questo professore invece, che fu cacciato, credo perché voleva fare un sindacato all'interno della scuola, se ricordo bene, chiaramente non era visto bene dai fratelli. E era una persona affascinante, che raccontava la filosofia più che insegnava la filosofia, quindi riusciva ad avere un seguito molto vasto. E al liceo ho avuto un professore di fisica che, quando entrava in classe, ci chiedeva: cosa avete fatto prima? E noi, quando prima di lui c'era filosofia, filosofia, e diceva sempre questa frase, me la ricorderò per sempre, diceva: filosofia, sì, quella scienza senza la quale il mondo rimane tale quale. professore di fisica proprio. Questa è l'espressione degli imbecilli, perché poi alla fine comunque... No, l'espressione degli ignoranti più che degli imbecilli, perché poi era professore. Secondo me anche la visione proprio imbecille, senza la filosofia non ci sarebbero state tante altre scienze comunque. In generale, comunque mi chiamo Sant'Agostino, quindi io invece in filosofia avevo la dannazione che chiamandomi Sant'Agostino ogni volta che entrava il professore di filosofia, Sant'Agostino, bene. Però comunque stiamo a parlare delle medie, io non voglio di niente. A questo punto io faccio... sono pure le 11 e un po', quindi esatto, infatti io a questo punto io invece farei proprio una cosa più intelligente, siccome che da qui in poi, quindi da questa parte delle medie in giù fino a tutte le superiori, secondo me c'è un'altra ora e mezza di cose da raccontare, perché in particolare le medie, secondo me, e le superiori, quindi quando nasce anche una certa consapevolezza, ok, qui ci sono anche delle cose particolari che secondo me oggi esistono e non esistono, però comunque andrebbero analizzate, ma in particolare secondo me poi c'è un momento in cui la scuola e quindi la nostra consapevolezza di quello che ci circonda incomincia ad incastrarsi anche con il mondo che era in quel momento, cioè quindi la consapevolezza delle mode, la consapevolezza delle musiche, la consapevolezza del modo in cui ci vestivamo, del modo in cui ci comportavamo, quello che ci insegnavano, dell'amore soprattutto, e del modo in cui affrontavamo le prime cotte, che è sicuramente diverso per certi versi ma uguale, perché chiaramente comunque l'impeto, il sentimento sempre quello rimarrà, no? Nel senso, però ecco, secondo me io dividerei la puntata in due parti, mi fermerei ci fermerei perché c'è molta roba ancora da dire, esatto, mi fermerei qui e ci ritornerei la prossima puntata in teoria sarebbe la puntata con Alex, l'ospite. Poi possiamo far passare anche un altro ciclo di puntate e poi ritornarci su questo argomento, perché secondo me da qui in poi c'è proprio un mondo che a me è molto caro, cioè nel senso proprio sul quale avrei veramente tante cose da dire, a partire dalle materie, dalle istruzioni, dalle iniziative che si facevano nelle scuole, che non so se oggi sono le stesse, forse Carlo ci può aiutare magari di più in questo, e poi al raffronto tutta quella parte magari che abbiamo scritto alla fine del documento, dove ci sono alcune comparazioni che avete fatto e che sicuramente avete magari più esperienza per poterlo fare. Però appunto di roba ce n'è troppa, cioè secondo me accelerare è un peccato adesso, cioè nel senso io mi fermerei proprio, insomma non so se siete d'accordo Carlo e Roberto. Sì, sono d'accordo. Lo appoggio. L'importante è appoggiarlo, e con una certa virulenza, che insomma sempre a volte piace. Insomma, e anche qua allora metti la musica di Elio e le storie tese e mettici John Holmes a questo punto. Che vuoi che ti dica? Che adesso in questo momento non ho, e quindi sai che faccio? No. Io ce le immaginiamo. Io rimetto il pianoforte di prima. Mi piace tantissimo questa cosa. E vi dico, ragazzi, che domani è venerdì, quindi domani c'è la mattina dalle 7 alle 8 c'è Leo con il mattino allora in podcast. Sabato domani sera, quindi domani venerdì sera, non ci sarà Runtime by Night, così come sabato mattina non ci sarà Disordinati Informati con me e Michela, perché appunto, come abbiamo detto, essendoci Alex Raccuglia a Roma, noi gireremo per tutto il weekend un videoclip per una musicista, una cantante, Veronica De Andreis, che torna dopo un po' di tempo insomma a fare i lavori con noi. Abbiamo fatto dei video bellissimi con lei, sono contento di tornare a lavorarci, però appunto sarà un weekend di lavoro. E quindi la radio purtroppo ne risentirà insomma da questo punto di vista, però poi dopo ritorniamo insomma lunedì con tutta quanta la programmazione regolare. Per quanto riguarda il canale YouTube di Archeologia Informatica, stiamo lavorando alegremente, presto usciremo con dei video, giusto Carlo? Giusto. E poi insomma nelle prossime settimane faremo anche un'altra puntata del podcast, così almeno cerchiamo di tirare fuori roba. Roberto, di che parla Alex? In che senso? Ah, di che cosa parleremo con Alex? Me lo ricordo, vuol dire un segreto? Sì, no, me lo ricordo, ma non me lo ricordo bene. Credo di Drive-In parleremo. Sì, sì, sì. Proprio di drive-in. Ok, quindi drive-in, proprio la trasmissione, quindi insomma un fenomeno culturale. Devo tirar fuori i miei dischi e i miei libri di Francesco Salvi, allora. Bravo. Ciao. E la mia foto di Sofia, la tizia che appariva, devo tirar fuori, ok. Zio Pino. Roberto Domaiuolo invece quando torna dell'Enda Cartago, che la gente me lo chiede. Non so che rispondere, neanch'io. Spero presto. È un periodo lievemente incasinato. Vabbè, che magari è anche un bene, no? per certi versi, insomma. Bah, diciamo di sì. Vabbè, quando c'è sempre meglio quando c'è da fare che quando non c'è da fare. Insomma, questo è anche giusto. Ma torna. Non è morta. Torna benissimo. Hai già in mente quello che di cui si parlerà, immagino. Insomma, quindi. Ho una sessantina di tracce già scritte, però che devo mettermi a farle. Ok, va bene. E invece salutiamo anche Davide Gatti, che Davide Gatti, ragazzi, è. Non si ferma mai. Davide Gatti, secondo me, tempo 6 mesi e ce lo giochiamo. Cioè, proprio. Secondo me. È arrivato lui. Lui per sempre. Non esageriamo. Ma non ce lo giochiamo in senso negativo, ce lo giochiamo in senso positivo, nel senso che diventerà una star e quindi non avrà più il tempo per cagarci. Questo dico, insomma. Sto già mettendo le mani avanti proprio adesso. Che mi passi la palla. Io ti comincerò passo, già a dirvi che usciranno ancora 2 o 3 episodi di Survival Hacking come podcast, che ricordo a tutti non è andato in ferie, anzi mentre tutti voi eravate in vacanza al mare, cioè lui invece c'era e invece andrà in vacanza adesso tra 3-4 settimane, diciamo, andrà in vacanza un attimino e vediamo se arriva a Natale poi ritorna magari. Perché in questo momento ho un'intensa attività lavorativa / extra lavorativa. Io dubbica. Ma anche di lavoro, purtroppo ho un incastro malefico di lavoro, secondo lavoro e terzo lavoro, sono un po' un casino. E quarto lavoro. Sono messo un po' maluccio, però insomma cerco di fare il possibile. A meno che qualcuno non abbia voglia di montare i miei episodi di Survival Hacking. No, guarda, io non è per cattiveria, lo farei anche, ma troppa roba, troppe inquadrature. Esatto, siamo davvero tutti. No, non parlo di video, parlo di podcast. Ma il podcast già si può fare, già il podcast si può fare. Lo so, però tutte le volte che cerco qualcuno, tutti questi. Sì. Sì, però adesso no. Se vede che non me l'ha chiesto a me, ha chiesto solo all'Artri, quindi va bene. Vaffanculo. Facciamo anche un po' di ferie, facciamo un attimo di pausa. È finita l'8ª stagione, adesso tra un po'. Stagione in 3 anni, poi in 3 anni. Cioè, noi in 10 anni ne abbiamo fatte 3, lui ne ha fatte 8 in 3 anni. Esatto. No, non è vero. Noi in 10 anni ne abbiamo fatte 8, diciamoci la verità. Esatto. Pensate che sono che uscì ridendo e scherzando, a volte quando guardo il numero mi sembra strano, ci sono usciti quasi, stanno quasi uscendo più video, cioè sono 80 episodi video, che non sembra incredibile, impossibile, più ce ne sono altri 10 adesso già usciti o 11 di un'altra serie che si chiama Survival Hacking Inside, qui sono già 90 episodi video che dico ma quando cacchio li ho fatti? Lo sai tu, guarda, non lo so, di solito non. Di sicuro non lo so come fai. Non lo so neanche, tu, ragazzi, faccio fatica. Bene, dai, comunque seguite Davide Gatti, Survival Hacking su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete i like a tutti i video e soprattutto condivideteli, pure se non capite un cazzo di quello che dice. Però insomma, se guardate il video si capisce di più che ascoltare l'audio, perché esatto. Anche e se noi siamo amici di Davide Gatti, e noi siamo amici, siamo quelli che l'hanno spronato a fare tutto questo, quindi e direi proprio di sì. Quindi ce ne andiamo fieri. Va bene, ragazzi, vi ricordo sempre www.rantemeradio.it, 24 ore su 24 trasmettiamo musica Creative Commons e ovviamente tanti dei nostri podcast storici, ma soprattutto 12, lo dico, è importante, 12 ore di live alla settimana, quindi abbiamo triplicato rispetto al grande risultato che facevamo di almeno una live al giorno durante il primo e secondo lockdown. Quindi il nostro obiettivo, insomma, è abbastanza chiaro: prima o poi speriamo di dare veramente una forma a questo progetto che è importante. Se volete www.rantimeradio.it cliccate su Anche Io, date una mano al progetto tramite un versamento costante su Patreon se volete, o una tantum su Patreon. Hai ragione, Patreon, oppure una tantum su PayPal. ci sono tutti i pulsanti, andate, cliccate, fate, insomma, date una mano al progetto. È più semplice cliccare che parlarne. Infatti, guarda. Esatto, cliccate, date una mano, perché veramente, insomma, stiamo crescendo, e entro la fine dell'anno nasceranno altri 3 programmi, quindi è proprio, cioè, una deriva insensata soprattutto perché dal punto di vista economico diceva, beh, ma questi fanno tutta sta roba, sono i soldi che guadagnano, miliardi. Ciao a tutti, grazie. Gente che non dorme più qui, esatto. Io vedo quella, molta gente che non dorme più. Andiamo a dormire, che mi devo alzare alle 4 domani, che c'ho l'aereo. L'aero. Grazie a tutti, mi raccomando, state sempre vicini a Runtime e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento con Quando Eravamo Futuro. Good night. Ciao a tutti. Ciao.